1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, le 7:19 minuti, cari italiani. Cosa fate, debosciati che non siete altro? Il Papa si sveglia alle 4. Sappiatelo. E voi? E voi siete ancora lì, pigroni, a tirarla in lungo. Va bene, eccoci qua, le 7:19 minuti. Oggi avremo un parterre molto ricco di ospiti dalle 8:15. Prima avremo l'ex ministro Cécil Kyenge. Alle 8:15, poi alle 8:30 il governatore del Veneto Luca Zaia. E poi parleremo anche per questo viaggio che Renzi sta facendo in Europa con il collega tedesco Tobias Piller, per cercare di capire che se riuscirà il caro Matteo Renzi, premier italiano, a convincere soprattutto Angela Merkel sulla tenuta dei conti pubblici, su quello che sta facendo l'Italia per i compiti a casa. Questo dalle 8:15, ora andiamo a sfogliare i giornali. Questo venerdì 14 marzo, intanto i titoli, Sole 24 Ore apre così: richiamo della BCE sul deficit. Ecco subito l'Europa, la Banca Centrale Europea che ci guarda, come il Corriere della Sera titola così la sfida europea di Renzi. E poi Renzi che ieri è andata porta a porta, il titolo di Repubblica: Renzi, le pensioni non si toccano, così il Secolo XIX, Renzi, non tocco le pensioni. Mentre la Stampa: Renzi tratta con l'Unione Europea sui conti. E anche il Messaggero: pensioni e Unione Europea, la sfida di Renzi. Questi sono dunque i prossimi fronti, il tema pensioni e l'Unione Europea. Se potessi avere 80 euro al mese, così titola il Fatto Quotidiano. Mentre il Giornale: occhio alla supertassa, c'è il trappolone del governo. Libero invece: ora il governo litiga sulla pelle dei pensionati. L'Unità mette in prima pagina questa frase di Matteo Renzi ieri a Porta a Porta: soldi a maggio o sono un buffone. Questi alcuni dei titoli, come vedete, sempre all'indomani, 24 ore dopo gli annunci fatti da Matteo Renzi, che ieri poi ha snocciolato nuovamente le cifre in TV da Bruno Vespa a Porta a Porta. Oh, però io voglio iniziare da alcune notizie di cronaca che da alcuni giorni sono sui giornali. Una, per la verità, è deflagrata ieri ed è oggi sui giornali. L'altra, invece, dalla quale voglio partire, è la vicenda, ormai è una questione che ogni giorno, ripeto, regala un particolare sempre più inquietante. È il caso dell'indagine per le baby escort al Parioli, con le accuse nei confronti del marito dell'onorevole Alessandra Mussolini, che ora scrivono i giornali, soprattutto il Corriere della Sera e il Messaggero, che dedicano una pagina a questo. Ammette: ho avuto due incontri con la baby escort, ma credevo avesse 19 anni. Così Fiorenza Sarzanini sul Corriere: il marito di Mussolini e la minorenne, l'ho incontrata, credevo avesse 19 anni. È vero, sono stato con lei un paio di volte, ma certamente non immaginavo che avesse 15 anni. Così di fronte ai magistrati, Mauro Floriani ha cercato di scrollare da sé l'accusa grave di aver sfruttato una minorenne. Non è però bastato. La contestazione è stata formalizzata, le indagini sul suo conto ormai alle battute finali. E tra l'altro il Corriere della Sera dice che ci sono altri clienti VIP, tra questi il figlio di un parlamentare di centrodestra, il vice capo del Dipartimento Informatica di Banca Italia Andrea Cividini, alcuni funzionari della FAO e almeno un manager della società di revisione Ernst & Young. Questo scrive Fiorenza Sarzanini. Gli altri nomi o comunque ruoli di rilievo che sono finiti in questa inchiesta. Anche il Messaggero dedica una pagina, pagina 12, agli sviluppi della vicenda. Baby squillo, Floriani crolla, ci sono andato due volte, ascoltato dai PM ammette: è vero, ma non sapevo che fossero minorenni. Tra l'altro il Messaggero va proprio sotto casa sulle tracce di quello che sembrava ieri un matrimonio naufragato. Ieri il Messaggero raccontava del marito di Alessandra Mussolini, che è uscito di casa una settimana fa, lei distrutta, che ha portato i tre figli dalla zia. Racconta Simone Canettieri sul Messaggero: andiamo sotto casa della Mussolini, che dice: vogliamo essere lasciati in pace, a pochi passi da Villa Torlonia, dove il duce visse fino al tradimento. Alessandra Mussolini si trascina nel suo personalissimo 25 luglio. È sera quando la passionaria dei salotti, falco degli emicicli ante litteram, entra nella villetta ocra sulla Nomentana. A bordo di una piccola Citroen nera, è triste e distrutta, stretta in un giubbotto nero, nervosa da non trovare la serratura del cancello interno, dice solo: non voglio parlare, ora basta. Le lacrime del giorno dopo non ci sono più. Per la senatrice di Forza Italia ora c'è il peso della gogna del web, di quel marito sposato nella familiare Predappio 25 anni fa e finito in una storia che indigna, come la prostituzione minorile. Non si sa se Floriani sia stato meno cacciato di casa, scrive oggi il Messaggero. Sta di fatto che a un certo punto appare anche su uno scooter, vabbè, insomma, alla ricerca di qualche dichiarazione che in realtà non c'è, ma certo una famiglia davvero in grave crisi per questa inchiesta. Mentre l'altra vicenda che abbiamo sentito nel giornale radio è davvero letteralmente deflagrata. Ieri è stato l'arresto della cosiddetta, finì alle cronache come la dama bianca, Federica Gagliardi, che comparve al G8 di Toronto nell'aereo che accompagnava l'allora premier Silvio Berlusconi. Era il 26 giugno del 2010. Ieri è stata fermata all'arrivo di un volo da Caracas in Venezuela con 24 kg di cocaina. Beh, davvero, i titoli sono proprio questi: fermata con 24 kg di coca, secondo gli inquirenti destinata a gente famosa, si parla di legami con la camorra. La stampa, la dama bianca fermata con 24 kg di cocaina. Tutti i giornali poi raccontano un po' la storia di come... intanto sia comparsa in quel giorno nel G8, no? Il Corriere della Sera racconta appunto di quel viaggio, con ovviamente testimonianze del perché comparve quel giorno al G8, dei resoconti di chi dice: vabbè, fece incetta di costumi brasiliani perché lei si può permettere di indossarli. Mentre Francesco Grignetti sulla Stampa, pagina 11, racconta la sua parabola sotto il titolo: l'ex dipietrista romana che accompagnò Silvio a cena con Obama. E sì, perché, racconta la Stampa, ha avuto anche un passato nelle liste dell'Italia dei Valori, si candidò alle amministrative a Roma, 25esima per il comune, capolista per il 20esimo municipio. Le elezioni andranno male però per il centrosinistra, malissimo per lei che raccimola appena 24 preferenze. Vabbè, è vietato ironizzare sulle 24 preferenze e i 24 kg di cocaina. Tra l'altro poco fa avevamo proprio ospite Antonio Di Pietro, che ironicamente ha detto: vabbè, ma si sa che molti di quelli che vanno da Berlusconi prima sono passati da me. La Stampa tra l'altro mette anche questo tweet. Sapete che su Twitter rimane tutto sulla rete. Federica Gagliardi twittò nel giorno 28 giugno 2013: oggi è la giornata mondiale di lotta alla droga voluta dall'ONU. Ecco il punto su consumi e sulle emergenze, con un link con tutte le informazioni. È stata beccata un anno dopo con 24 kg di cocaina. Comunque, questo è, visto che abbiamo iniziato parlando di prostituzione, due notizie, una legata a questo prima della pubblicità. C'è una senatrice del Partito Democratico, Maria Spilabotte, che ha proposto il ritorno delle case chiuse, detta brutalmente, cioè un ritorno alla legalizzazione della prostituzione. Apriti cielo, anatema sulla senatrice del PD Maria Spilabotte, protagonista il suo parroco Don Giorgio, denuncia adesso la senatrice del PD nell'ultima messa di domenica scorsa la strigliata nell'omelia. E denuncia a Repubblica: Maria Spilabotte ha detto che sono andata in Parlamento per riaprire le case chiuse e riportarci le nigeriane. Non si capisce poi perché questo attacco direttamente alle nigeriane. Questo del parroco Don Giorgio. E poi, dopo aver detto questo, ha alzato gli occhi al cielo congiungendo le mani: manco avessi bisogno dell'esorcista. E scrive Repubblica: sembra di essere tornati ai tempi di Peppone e Don Camillo. E poi l'appello che Gerry Scotti fa e sulla stampa viene raccolto a pagina 3 Gerry Scotti, cari italiani, se non lo sapete, ma era già notizia circolata, si sapeva già, essendo stato parlamentare in una legislatura, gode di un vitalizio, credo che per una legislatura siano sì 3.000 euro al mese. Gerry Scotti ora dice: io quel vitalizio non posso rifiutarlo per legge, ma non lo voglio più. Faccio un appello a Matteo Renzi, dovresti eliminare i vitalizi e il mio non lo voglio, toglimelo! Caro Matteo Renzi, forza, accogliamo l'appello di Gerry Scotti, facciamo di tutto, per favore, La pubblicità. Alessandro Milan, il ginecologo dell'informazione. Ma che vuol dire? Ma dai, su, ma fate i bravi. Ti abbraccio, caro ascoltatore. Comunque, allora, Matteo Renzi, ieri è andato a porta, il titolo che trovate più diffuso sui giornali è questa frase che lui stesso ha detto: se a maggio non ci saranno gli aumenti promessi in busta paga agli italiani che guadagnano sotto una certa soglia, io sono un buffone. Quindi potete darmi del buffone. Soldi in più a maggio o io buffone? Così è il titolo, per esempio, di pagina 2 di Repubblica, ma l'Unità addirittura mette questo in prima pagina. Per la verità Repubblica critica un po' la vicenda di porta a porta, nel senso che Sebastiano Messina nell'articolo scrive che di fatto Matteo Renzi ha fatto un monologo, di fatto conducendo lui stesso porta a porta al posto di Bruno Vespa. In questo quasi monologo ha tirato fuori dalla tasca tutto quello che non ero riuscito a dire il giorno prima a Palazzo Chigi, sulle tasse innanzitutto, sugli stipendi dei manager pubblici, su quelli dei parlamentari, sui debiti con le imprese. Vespa ha esordito con un tono fintamente inquisitorio: le chiederemo voce per voce, euro per euro, cifra per cifra, dove troverai i soldi. Ma le foto di banconote da 50 e 100 euro che continuavano a apparire sullo sfondo segnalavano che quello era un assist, non un tackle, cioè questo gergo calcistico, cioè non un'azione, diciamo, di contrasto, ma un assist al Premier. E anche per il Corriere della Sera, ecco, il titolo è questo: Renzi all'Unione Europea deve cambiare le pensioni, nessun prelievo. Dunque, titolo più istituzionale rispetto al buffone con Renzi, che però ha snocciolato ancora le promesse che aveva già fatto il giorno prima in conferenza stampa. Per esempio, per la questione del pagamento sui debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende, quando Vespa in qualche modo lo sfida dicendo è impossibile entro giugno, Renzi dice, spostando la data, è vero, è possibile entro il 21 settembre il mio onomastico. E Vespa risponde: ma così mi ruba 3 mesi, fa niente, risponde Renzi. Se perde, lei va a piedi al santuario di Monte Senario. Se perdo io, sa dove mi mandano gli italiani. Vabbè, Matteo Renzi dunque che si professa, continua a professarsi ottimista, tanto del attribuirsi del buffone se non riuscirà a mantenere questa promessa dei soldi in busta paga a maggio, ma il fronte nuovo è già spostato sull'Unione Europea. Lunedì incontrerà anche la Merkel, anche Hollande. Perché? Beh, secondo il Corriere la vera missione è proprio questa: convincere i partner europei, in questo caso tedeschi e francesi, a sforare il deficit, a sforare il rapporto 3%. Maria Teresa Meli lo racconta a pagina 3 del Corriere della Sera: la missione a Parigi e a Berlino per far passare la strategia sui conti. Matteo Renzi, scrive il Corriere, si prepara alle contese più difficili, non quelle nelle aule di Camera e Senato, che sono state tutt'altro che facili per la verità, ma quelle che lo attendono di qui a poco sono con l'Europa, a cui dovrà spiegare come e perché l'Italia intende puntare su uno scostamento del disavanzo programmato. Su questo punto il Premier è insolitamente fiducioso, dice a tutti: preferisco il dialogo diretto, è più efficace e funziona meglio. Il Quirinale e il Ministero dell'Economia si mostrano ben più cauti, ma lui dice: se si galleggia si affonda, come dimostra quello che è successo al precedente governo. Noi dobbiamo decidere anche a costo di rischiare. Per questa ragione sul piatto della trattativa con la cancelliera Angela Merkel porrà non solo le cifre e i numeri, ma farà pesare anche la politica, e dunque cercherà di utilizzare quel suo carattere, scrive il Corriere, di comunicatore che ha già messo in mostra. Ci proveremo, continueremo a farlo, e cercheremo di convincere l'Europa. Anche se a un certo punto dell'articolo Maria Teresa Meli racconta che un deputato renziano che premette per favore non scriva il mio nome, per carità, ma scriva tranquillamente che stiamo perdendo la battaglia contro l'alta burocrazia. C'è poco da fare, ci proveremo e continueremo a farlo, ma temo che finiremo per sbattere contro un muro. E ce la farà dunque Renzi in questa battaglia che sembra la battaglia principale, quella contro i frenatori, come lui li ha definiti. Intanto Federico Fubini su Repubblica racconta che appunto l'Europa è il prossimo fronte, l'Europa, la BCE a Roma, dovete frenare deficit e debito. E Renzi dunque spinge sulla spending review. Tra l'altro sulla spending review ieri ha detto il controllo passa a Palazzo Chigi, che sembra quasi una sorta di commissariamento per il commissario Cottarelli. Comunque, come scrive il Corriere, a Palazzo Chigi la regia sui tagli di spesa. Ieri Renzi tra l'altro ha assicurato i pensionati, a meno se si sentono rassicurati non lo so, ma ha voluto precisare su questo tema, ci seguono in tantissimi pensionati, ci seguono, sono una categoria molto, molto diffusa in Italia, molti milioni di persone. Ebbene, in questo caso ha fatto già una prima smentita il commissario Cottarelli, che dalle cui dichiarazioni si evinceva che le pensioni sopra i 2000 euro potevano essere toccate da un contributo di solidarietà. Ieri Renzi a porta ha detto no a prelievi sotto 3000 euro, quindi ha spostato questa soglia in alto di 1000 euro. Stop al contributo di solidarietà sulle pensioni medio-alte per favorire nuove assunzioni, così Marco Rogali sul Sole a pagina 5. La proposta di far scattare nel 2014 il prelievo su trattamenti superiori a 2.500-3.000 euro contenuta nel piano Cottarelli è stata scartata direttamente da Renzi, che ha detto l'idea che uno che guadagna 2-3.000 euro di pensione sia chiamato a dare un contributo forse c'è per Cottarelli, ma io la escludo. Beh, se non è un commissariamento del commissario, ditemi voi. Tutti i titoli sono su questi, polemica sulle pensioni, ma Renzi precisa non le toccheremo, sulla Stampa. Anche i pensionati chiedono sgravi fiscali su Repubblica. Il governo litiga sulla pelle dei pensionati, così titola Libero. Sta di fatto che sui pensionati ci sono queste precisazioni di Renzi. Sempre per quel che riguarda Cottarelli, Libero fa una, non dico una polemica, ma una precisazione a pagina 7, dice ma guardate che in realtà Cottarelli sulla vicenda della RAI, cioè chiudere le sedi regionali della RAI, Cottarelli copia chi? Milena Gabanelli, che già tempo fa aveva scritto in nessun paese europeo ci sono 25 sedi locali della RAI. A cosa servono? A produrre 3 TG regionali al giorno con prevalenze di servizi su sagre, assessori che inaugurano mostre, qualche fatto di cronaca, perché non razionalizzare? Poi ci sono i centri di produzione che non producono nulla come quelli di Palermo e Firenze. Parole di Milena Gabanelli, che ha un programma di grande successo proprio sulla Rai Report, lo sapete, e che evidentemente, scrive Libero, sono state ascoltate da Cottarelli per prevedere la chiusura delle sedi della RAI. In tutto questo ci sono le analisi su cosa sono le tasse sulle rendite. Secondo Repubblica pagheranno di più 10 milioni di italiani. L'annuncio, che per la verità è stato fatto tante volte negli anni e poi mai rispettato, dei manager di Stato che non potranno guadagnare più del Presidente della Repubblica, e dunque un tetto a 248.000 euro senza deroghe. Perché in Italia, sappiate, cari italiani, lo sapete, l'avete imparato, ma la deroga c'è sempre. La deroga si nasconde nei cavilli, nei dettagli, perché c'è sempre stata questa limitazione. E poi però ci sono manager di Stato che guadagnano 1.000.000 euro, 700.000 euro. E dici, com'è possibile? Le deroghe, in Italia sempre le deroghe. Scrive invece il Corriere della Sera che spunta alla fine l'incarico per il PM di Reggio Calabria, Nicola Gratteri. Sapete che c'era stata una polemica, scrive Giovanni Bianconi, perché Gratteri doveva essere nominato ministro, era ormai certo ministro della giustizia, poi era stato, scrive Bianconi, depennato per volontà di Napolitano nel momento in cui c'erano proprio il colloquio finale per la formazione del governo. Ora però c'è l'incarico a Gratteri voluto da Palazzo Chigi. Il PM calabrese ha incontrato lì la scorsa settimana il sottosegretario Delrio ed è una situazione che potrebbe creare, scrive il Corriere, qualche difficoltà se non altro a livello diplomatico. Questo nell'articolo di Giovanni Bianconi a pagina 13, visto che, come dire, è stato messo gentilmente fuori dalla porta del ministero da Napolitano, secondo le indiscrezioni di tutti, e ora rientra dalla finestra sempre al ministero. Vorrei fare una deroga e triplicare lo stipendio a Mauro Meazza. Ti ringrazio così posso anche, penso che tu lo faccia per i tuoi due urini. Sì, ma... chiaro. Beh, chiaro, lo faccio nominare te per poi prendere un beneficio. Il classico do ut des all'italiana. Puoi fare due conti, perché oggi Gianni Trovati e Marco Mobili fanno anche ancora un po' di calcoli sui dividendi. Vedi subito, pensava a dividere la torta. Mi hai dato lo stipendio, già io mi sono visto a dividere la torta. Volevo comprarmi società quotate qua e là, ma forse non è il momento, perché attenzione, c'è Raffaele Rizzardi, spiega proprio nella pagina 6, la stessa dove trovate le simulazioni IRPEF-IRAP, degli sconti IRPEF-IRAP, perché in questo momento avere come dire, dei dividendi, se non sistemano bene la cosa, l'annunciato aumento della ritenuta, ecco, potrebbe essere un problema. Poi c'è tutto il giallo sul lavoro, la deregulation del lavoro, sai che c'è un decreto legge e un disegno di legge. Sì. Tu l'hai detto prima, il diavolo è nei dettagli, insomma. Ecco. Allora, il dettaglio del provvedimento, che ancora dobbiamo vedere nella sua forma ufficiale, insomma, bisogna capire, allora, sto contratto a termine, c'ha la causale, non c'ha la causale, che bisogna fare? Sì, tra l'altro, Mauro, permettimi di segnalare che su un altro giornale, sull'Unità, Giuliano Poletti oggi fa un'intervista proprio a pagina 3 e spiega quelli che sono i dettagli, insomma, poi chiaramente però c'è da capirli meglio. Consiglio una lettura incrociata, così in qualche modo mettiamo insieme tutte le anticipazioni. E poi volevo chiederti, gentile contribuente, qualcuno ti ha mai chiamato gentile contribuente? Sì, gentile, sì, contribuente gentile, pure. Gentile ecco contribuente. Ecco l'accoppiata magari. Ci sono pronte le lettere sul redditometro. Oh, cominciano così, gentile contribuente o aspirante tale, verrebbe da dire, perché anche il mio commercialista ieri mi ha detto, se ti arriva una lettera dell'agenzia delle entrate non si spaventi. Ma perché uno si deve spaventare se arriva in automatico? Gentile contribuente, non è che ti dicono caro malfattore, cioè, no, è una cosa molto garbata. Ne mandano 20.000, spiega tutto Marco Peruzzi, poi ci sono anche degli approfondimenti di tipo tecnico nella sezione di norme e tributi. A proposito, stavolta non facciamo qui Radio Fisco, facciamo qui Radio Lavoro, perché abbiamo il calcolo del TFR. Attenzione, è importante. Tu non lo sai perché, neanche io bene, lo so perché, ma so che è un numeretto molto importante. Ce l'abbiamo, e oggi sul Sole 24 benissimo, Ore. Benissimo. E poi, che dire, e poi vediamo che succede tra domani e dopodomani. Che insomma, succede? Non lo so, per la Formula 1, perché riparte la Formula 1. Ci si potrebbe dedicare alla Formula 1, io, ma anche te, insieme. Vediamo che succede, insieme. E poi magari lunedì parliamo di Formula 1. Parliamo di sport, finalmente. Visto che sono macchine, lo dico, a questo punto lo dico. Certo. Traffico. Alessandro Milan, il gigrobo d'acciaio dell'informazione. E questo non è male, anche perché io vedevo proprio gigrobo d'acciaio, ero innamorato di questo cartone. Allora, per continuare sulla politica, è chiaro che la situazione è dopo l'approvazione dell'Italicum alla Camera. Ora tutti i numeri si spostano e tutti i problemi al Senato. Ecco, per esempio, ve l'avevo detto di stare attenti, perché al Senato i numeri sono più risicati. Titola il Corriere a pagina 12, Italicum, la fronda di 21 senatori del PD. Ci sono 21 senatori lanciati dal lettiano, quindi più della corrente di Letta, senatore Russo, che chiedono: prima va fatta la riforma del Senato, prima della legge elettorale, che è un modo molto semplice per dire mandare in là le cose per non farla, un tentativo di boicottaggio. Però, per la verità, la stessa Anna Finocchiaro viene intervistata a pagina 13 di Repubblica da Tommaso Ciriaco e dice la stessa cosa: prima la riforma del Senato e solo dopo l'ok all'Italicum. È una questione non solo di dettagli, di tempi parlamentari, per qualcuno è un tentativo di, appunto, boicottaggio vero e proprio. Ovviamente Anna Finocchiaro respinge questa lettura. Intanto dice: sa una cosa, la differenza tra me e Renzi è che io potrei essere sua madre, quindi ho una pazienza di Giobbe, non guardo indietro, guardo parecchio avanti. La possibilità più giusta è fare prima la riforma del Senato e poi la nuova legge elettorale. Nella nuova legge elettorale è previsto per la Camera un forte premio di maggioranza. Questo premio è ragionevole se garantisce o è in grado di garantire la governabilità. Questo è il dettato della Corte Costituzionale. Insomma, prima la riforma del Senato e poi la legge elettorale, sta di fatto che sulla riforma del Senato devono decidere anche i senatori. E qui ecco l'onorevole Miguel Gotor del Partito Democratico Bersaniano di Ferro che dice al Corriere della Sera: la riforma del Senato, d'altronde nel Novecento sono rarissimi i casi di assemblee parlamentari che si sono suicidate. Ecco, certo, avete mai visto il classico tacchino che festeggia il Natale? No, e quindi, dice Gotor, sarà difficile vedere un senatore che si suicida, tra virgolette, politicamente, cancellando la seggiola sulla quale siede lautamente pagato. Un senatore, insiste ancora in questa intervista il Corriere della Sera a Miguel Gotor, intervista di Monica Guerzoni, un senatore non legherà mai il suo nome a un possibile disastro istituzionale. E soprattutto questa frase: nel Novecento sono rarissimi i casi di assemblee parlamentari che si sono suicidate. Così Miguel Gotor. Ecco, mettete insieme le due cose: chi chiede prima la riforma del Senato per poi fare la legge elettorale e chi dice: ma tanto la riforma del Senato, vi vedete che i senatori si chiudono il Senato? Sembra un tentativo di far naufragare tutto, così a me pare, ma io ho sempre una lettura semplicistica, però a volte ci si azzecca. Intanto dal fronte del centrodestra Giovanni Toti, il coordinatore di Forza Italia, intervistato da Amedeo La Mattina sulla Stampa, conferma: Berlusconi sarà in lista alle elezioni europee di maggio. Ormai è una cosa che viene data per certa, un giorno sì, un giorno no, da tutti i giornali. Certo, c'è questo inghippo della condanna, della legge Severino che prevede l'incandidabilità dei condannati. Che farà? Si candiderà e aprirà un contenzioso a livello giudiziario su questo? Giovanni Toti dice: certamente si candiderà. Passiamo alle notizie di cronaca che mi hanno colpito. Il Fatto Quotidiano si concentra, pagina 3, con Marco Lillo e Valeria Pacelli, sui conti dello IOR, la Banca Vaticana. IOR, l'ultima fuga di capitali, questo è il titolo. L'Istituto Vaticano sta chiudendo molti conti, ma i soldi vengono spostati in Svizzera, estero su estero, cioè dal Vaticano in Svizzera. Scrive il Fatto: un investigatore sotto garanzia di anonimato la definisce così: è una delle più grandi operazioni di ripulitura del denaro nero. Centinaia di milioni di euro depositati sui conti dello IOR stanno uscendo in queste ore verso paesi esteri anche a bassa fiscalità e con scarsa trasparenza come la Svizzera, senza che il Vaticano comunichi all'Italia i nomi dei correntisti e la destinazione. Lo IOR sta così ripulendo la sua clientela, intimando a 1250 correntisti di lasciare la Banca Vaticana con una lettera di recesso unilaterale. Il vento di pulizia di Papa Bergoglio però si ferma alle mura leonine. Cioè, scrive il Fatto, hanno detto: per ripulire i conti andate via da noi, però si rifiuta lo IOR di dire i nomi di questi correntisti allo Stato italiano. il rischio per il Fatto Quotidiano è che diciamo allo IOR si ripuliscano appunto dei conti anche magari sospetti, ma questi soldi in realtà vadano in altri paesi, quindi il problema dal punto di vista dello Stato italiano per presunti eventuali evasori è che questi soldi non li vedremo comunque. Poi mi ha colpito questa sentenza che viene raccontata dal giornale di Enrico La Gattolla: i giudici accusano l'Italia è uno stato biscazziere. È una vicenda che abbiamo trattato molte volte proprio con questo aspetto. Ma perché contrastare, che ne so, le sale da gioco se lo Stato stesso chiede, con tutti i gratta e vinci, il lotto, i premi, fa soldi su questo? E se lo ha chiesto anche il TAR di Milano, che con questa motivazione ha sospeso un'ordinanza del comune che voleva chiudere una sala scommesse, dicendo il legislatore, quindi lo Stato, favorisce il gioco d'azzardo per aumentare le tasse e aumentare le entrate fiscali, e quindi il comune di Milano non può chiudere una sala giochi, perché lo Stato già con altri gratta e vinci, lotto appunto eccetera, con altri mezzi fa soldi allo stesso modo, e dunque evidentemente lo può fare anche una sala giochi, una sala di gioco legale organizzato ovviamente. Bene, siamo al momento della carta costa? Beh, ma sì, e oggi stravince Libero a pagina 22 con l'articolo più inutile scovato sui giornali. Il titolo è già tutto un programma. Un'intera pagina, peraltro, dal titolo 20 anni prima. Le cose che sono sparite, a partire dalla nebbia. Giordano Tedoldi che si chiede anche: ma dove sono le nevi di un tempo? Dov'è la nebbia a Milano? La gente se lo chiede, ma no, non se lo chiede la gente, non gliene frega niente di chiedersi queste cose e di leggersi una pagina su Libero a chiedere dove sono finite le cabine telefoniche, dove è finito il totocalcio, ma chi se ne frega, la carta costa, andrebbe capito, il giornale radio.